Storie de noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Carissimi ascoltatori, un affettuosissimo saluto da parte di Gesi e di Antonio. Oh Antonio, siamo giunti all'ultima trasmissione e poi ci saranno le vacanze estive. Speriamo meritate. Ecco, sì, beh, penso proprio di sì, almeno quello che si sente. Si evince. Ecco, appunto. Sì, sì. E a Dio piacendo ritorneremo dopo l'equinozio d'autunno. Oh, vedo come parlo bene stasera. I ecco. Riferimenti così astronomici. Beh, io spero che siano stati contenti di noi, almeno a quello quanto dicono, insomma, sembrerebbe di sì. Benissimo. Ecco. Allora Antonio. Allora noi diamo intanto le nostre coordinate e un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it ed è anche possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. Senza dimenticare un saluto al nostro regista e al nostro coordinatore. Certo, loro prima di tutto. Però salutiamo anche il nostro ospite che è il professore, poeta, attore Francesco Crosato. Buonasera Francesco. Buonasera Francesco. Ciao a tutti. E benvenuto a questa trasmissione, bentornato diciamo in questa trasmissione. Sì. Allora, adesso ci ascoltiamo la prima canzone e poi daremo la parola a te subito. Allora, la prima canzone in programma è una canzone molto allegra, sì, stasera ci saranno canzoni un po' allegre perché in attesa dell'estate vera e propria vogliamo stare un po' in allegria, ecco. Allora, canzone blu cantata da Tony Renis. Da un minuto ho aperto gli occhi come al solito è mattino, sì, però stavolta non ti ho vicino. Sei partita ieri sera, tornerai tra poche ore, sì, lo so però che vuoto al cuore. Non so più restare solo, fumerò una sigaretta, no, il tempo no, non va più in fretta. Forse è meglio la chitarra, inventare una canzone per sentirti qui vicino a me. Canzone blu, azzurri sono i sogni, come azzurri sono gli occhi che hai tu. Canzone blu, sentimento chiaro, come chiaro quel sorriso che fai tu. Ispirazione, sentirei questa canzone. Io non ho mestiere ma una gran passione. Vieni, vieni poesia, vieni, vieni melodia, mi farete un po' di compagnia. Quando tu sarai tornata, devo averla terminata, questa strana pazza serenata. Ma di colpo l'impressione che ho finito la canzone, torna presto e te la canterò. Canzone blu, azzurri sono i sogni, come azzurri sono gli occhi che hai tu. Canzone blu, sentimento chiaro, come chiaro quel sorriso che fai tu. Ed eccoci di nuovo in studio con un breve profilo del nostro ospite. Francesco Crosato è nato a Treviso, città in cui attualmente vive e lavora. Laureato in filosofia all'Università Ca' Foscari di Venezia, insegna italiano e storia nelle scuole superiori. Premiato al concorso nazionale di poesia Lodi, città di Ada Negri, ha pubblicato nel 1994 la raccolta di poesie Cos'hai che non parli, edizione Ensemble 900. Nel 2000 la raccolta di poesie in dialetto trevigiano Sciantisi, Longo Editore, Ravenna. Nel 2004 il testo poetico in dialetto, 300 esemplari, Ma mama o no mama, me mama. Ed il poemetto, sempre in dialetto trevigiano, No soio non soio, che poi naturalmente l'autore spiegherà, edizioni Antilia, Treviso. Nel 2005 ha pubblicato Strani incontri, raccolta di brevissimi testi a carattere ironico, corredati dai disegni di Michele Bonotto, opera ripubblicata l'anno successivo in 1000 esemplari. Per quanto riguarda il dialogo intrapreso con la pittura, nel 2005 ha realizzato con gli artisti Bellotto, Brancher e Santorossi il catalogo Travasi comunicanti, libreria Agorà in Feltre. Ha scritto numerose poesie ispirate alle opere, tra gli altri, di Tony Benetton, Giorgio Celiberti, Riccardo Licata, Carmelo Zotti. Con l'artista Angelo De Martin ha realizzato nel 2007 la rivista Cren. Attualmente sta lavorando a una libera traduzione dell'opera No soio non soio e alla realizzazione di una raccolta di fiabe Ometti neri in camera, edizioni Kellerman, corredata dalle illustrazioni di Alessandro De Bei. Sì, sono molto belle. Bene, sì. Allora a te la parola. Sì, questa l'opera appunto di Le fiabe sono state nel frattempo pubblicate appunto, giusto, da Kellerman, con queste illustrazioni di De Bei, con delle fotografie, insomma sono 20 fiabe moderne, ecco, diciamo. Vabbè, insomma, comunque oggi parliamo di Non solo non solo, questo poemetto in veneto che ho tradotto in italiano, ma non ancora pubblicato in italiano, ma pubblicato nel nostro dialetto trevigiano. Quindi lo leggi in dialetto? E lo leggo quindi in dialetto, qui leggerò dei pezzi, dei brani, insomma, sì. In questo lungo poemetto, 160 pagine, che parla di un protagonista, appunto un sacrestano, no? In dialetto non solo. Ecco la spiegazione. Ecco, il quale lavora tutto il giorno, dalla mattina alla sera, ed è particolarmente stanco perché è oberato dal lavoro, tirato da tutte le parti, quindi non fa solo il sacrestano ma fa tante altre cose in realtà, pulisce fuori, dentro la chiesa, viene chiamato da suore, preti, eccetera. È la classica persona che lavora tantissimo e anche non riesce a dir di no in pratica, no? E quindi ecco da qui il titolo Non so, no so o non so, cioè lui dice sempre non faccio solo il sacrestano ma mi tocca fare tante altre cose, e quindi in qualche modo rappresenta anche, allargando un po' l'orizzonte, l'uomo del nord-est oberato dal lavoro, ecco, che si sente quasi in obbligo di lavorare tantissimo dal mattino alla sera e poi esplode. Allora questo sacrestano a un certo punto dice, beh, se continua così mi verrà un colpo e non ce la faccio a tenere questi ritmi di lavoro. Il colpo gli viene, in realtà o immagina che gli venga, poi sapete, dal punto di vista artistico, e va a finire nell'aldilà. Nell'aldilà trova tutti i santi dai nomi più strani, che lui riconosce perché ogni santo ha la sua targhetta col nome, e come legge il nome del santo nella targhetta, lui si sente immediatamente in colpa, comunque, solo a partire dal nome, non so, San Piero Chanel, che esiste perché li ho recuperati poi anche dal calendario, e dice forse sono un po' troppo narcisista, uso un po' troppo il profumo, mi imbelletto troppo, e allora si sente già in colpa e pensa di essere finito in questo posto che prelude l'inferno perché era troppo così narciso, per dire, no, è avanti e continua, quindi ecco il suo problema, quindi ha il senso di colpa comunque. A un certo punto dirà, beh, insomma, adesso mi fate parlare con Gesù Cristo, perché se devo continuare così, no, già comunque sono dannato, prima di finire all'inferno fatemi parlare con Gesù Cristo, che ora gli spiego un po' la mia situazione. E qui avverrà poi l'incontro fatale, importante, centrale con Gesù, il quale gli risolverà metà dei suoi problemi, perché Gesù si avvicina a lui con questo fare molto umano, gli dice, dai, vieni, che teme Conti, andiamo a bevere una ombra e teme Conti. Allora questo approccio così umano di Gesù gli risolve metà dei suoi problemi, ripeto, che hanno problemi determinati da questo superio eccessivo, da questo senso di colpa, diciamo, sì, da queste regole da rispettare, e allora lì inizia la parte centrale di questo poemetto, in cui seguirà, accompagnerà Gesù e gli farà fare tutto il percorso, diciamo, la parrocchia, la chiesa, il camposanto, insomma, e gli chiederà ragione anche di tante sue domande, insomma, anche esistenziali. Poi alla fine questo sacrestano chiederà a Gesù, e poi alla fine, insomma, finirà in un modo che non raccontiamo, ovviamente. Però ecco, adesso io, insomma, via via leggerò alcuni passi, direi, dell'inizio, no? Questo sacrestano tuttofare, e poi i santi, che è abbastanza divertente, perché appunto c'è questa sequela di santi che lo interrogano, e poi l'incontro decisivo con Gesù. Gesù, ecco, potremmo fare così un po' l'inizio, insomma, di quest'opera, ecco. Iniziamo? Sì, prego. Allora, qualche minuto di, diciamo, di addentrarsi, ecco, in questo. No solo, non solo. Non so ispio, stantio stuio e seie, non so pasuo, non so che serve, risponde anche a mensa se serve, e se sbatte il petto, non so zagheto. Non so immosina, non so che frapoea, non so che frassa, che fraca, na busta, sgionfa. Manego non perdona, manego che bastona, un porocan, sua testa. Non so de festa, non so bonorio, tre mesi di oman, non so spario. Non so che smissia, batte in taglia in tassa e scaraboccia. Scienzio in saia, si orconta il non so caia. Non so tocco, soco, bauco, in semenio, parfin l'osto, te osteonadrio. E zemuo, zemuo! Non so copà, non so scaturio. Vede il piovan, torna riendrio. Non so al vespro, de novo al suo posto. Brusa candè, spaianca messai, ingruma caso in mezzo i piviai. Sgorla turibo in gatti anei, se brusa incensi fin su paidei. Fa un salto che scampa caena, sbrisa sul tapeo, va in dio de schiena, una vampada dos ciocchi, no che ciapa fogo un tendon d'oro pien de fiocchi. Con spunciotolo in pira, il se despica, il se gira, il se sbassa, lo schiva, sua copa il geriva, e il ghe brusa a blusa, coi occhi de fora, e il sufia lo sora, e il sinciucca, il tontona a soca, lo pesta, il fa tutto un grumo, in mezzo che il fumo, spense in fora a menoca, pos longa a bocca il ghe spua, insomma tanto il fa, finché lo stua. Bello, bello, bello. Esilarante, è bellissimo. Un fuoco artificiale, sì. Praticamente. Bellissimo. Bene, allora ci fermiamo un momentino e andiamo con la seconda canzone in programma, che è cantata da Renato Zero, Spiagge. Spiagge immense da sola te, spiagge già vissute, amate poi perdute in questa azzurrità, fra le conchiglie e il sale, tanta la gente che ci ha già lasciato il cuore. Spiagge, i corpi abbandonati, gli attimi rubati, mentre la pelle brucia, un'altra vela va, fino a che non scompare. Quanti segreti che appartengono al mare. Un'altra estate qui e un'altra volta qui, più disinvolta e più puttana che mai. Mille avventure creeranno nuove spiagge di cocco e di granite, di muscoli e bikini, di straniere e di bagnini, quel disco nel jukebox suona la tua canzone, per la tua storia che nasce sotto l'ombrellone. Spiagge, un'altra vera compare, quanti segreti che appartengono al mare. Un'altra estate qui, è un'altra volta qui, più disinvolta e più puttana che mai. Mille avventure che non finiranno, se per quegli amori esisteranno spiagge dipinte in cartolina. Ti scrivo, tu mi scrivi, poi torna tutto come prima. L'inverno passerà tra la noia e le piogge, ma una speranza c'è, che ci siano nuove spiagge. Eccoci di nuovo in studio e diamo la parola al nostro professore. Ecco, allora eravamo rimasti a questo nuns, questo sacrestano che lavora tantissimo e che a un certo punto, insomma, rischia anche di bruciarsi a causa di una tenda, no? E adesso riprendiamo allora da lì e vediamo come prosegue la storia. Soagro, so straco, so stufo, so sgionfo e so anche stuio. Qua fa so di tutto, so non so zaghetto, so campaner, che mancava solo facesse il pompier. E voi altri ride, sganasse il non so stuio, il segà brusto è, abedò le ganasse, vestrenze e il figà. Ma sto non so asso, se agro, se straco, se stonfo de tutto e se gastomega. Se agro de preti, corvi maledetti, prevosti e piovani. Se agro de cese, de messe che casca i primi del mese. Se agro de nosse, novene, battisi, se agro de risi che sgrende fin sotto e tende. Se agro de messe, cantae de precetto de prime funzion che te tira so dal letto. Perché i quattro vei piegai che pacio e assora i bancai. Dovece dure derece, domoneghe bone suo rincurar gate e speuchi quetoneghe. Se agro de vespri, di quei quattro cionta che riva dei campi, chi va a posare a gaossa dove se senze noccia, chi gae a zuppa, che casca, e ciaparia e schinseria tutti so per terra, e in bomba e strucca e strossa strassa e strussa e russa a sa sola guassa, e russa e rassa fin l'ultimo scain e grata su esò col cain. Ed escarpia furbisci altari altareti, anche dove non passa più i preti, anzi no. E passare anche io al prete co che sonera baretiera a crosera, a crosuea. Me scuse, monsignor, il tegne qua il spasseton, e anche a sto secio palaguassa. Mammi no, nonno go mai tenuo in manna strassa. Che aslongaria proprio vuintiera. E che presentaria anche a superiora, orca che a maiora, so, cara me suora, russe per terra. Poi a fine della giornata, una bea paca sua goba, a monega, stracca, vanto il prete pa'l copin, e so in sacrestia strussar via fin l'ultima scarpia. Che se dei giorni dico davvero, me butaria in tal fosso, me butaria. Soagro, vuoi crepar, tutti che me ordina, tutti che me cria, non so de qua, non so de striga meglio de ah, non conosco feste, domeneghe, ne di comandai e pareccia sta messere, mena sti fiori, e sistema sti altari, e lustra sti ori, e furbisci sti cori, e impissa stua netta. De volte me par che un dio st'altro deva quasi ciaparme un simiton. E tin, e ton, folgorà, magari in procession. Tin, ton, simiton, simitero. Stianun? Ah, così, altro che cori da lustrar, da furbir, da scarpiar, cori, cori veri e canti, si orconta il non so se ritrova, dito fatto, ciapa in meso a tutti i santi. No, non ste creda, non sé che non me veda, che non me ferme mai guardarme in te specie, se che se dico che me vedo, dico ciapa in meso a tutti i santi, vuol dire che me vedo e cosa posso farne mi se me vedo. Scarsi tu ho fatto posta, non so. Godito ci appa in mezzo a tutti i santi, pena che rivo i riva, perché quei riva come i vede che mi rivo, e i me squadra e decide se sbatterme da una parte o da st'altra, e da insomma una prima come dir scremada, ma disevo un futio, una strico e ada de santi, tutti chi se spolmona, tutti chi canta in sorte, tutte sorte de canti. Ma santi, santi strani, foresti na foa strucada, chi col sercello in pisà, chi stuà, chi meso in pisà, chi meso stuà, che il fa contato, che te par de intravedere un santo, invece te che ne sta chiamando un altro, che come nome magari il ghesso meia, qui o se meraveglia, il teosa, non so, date na sveglia, o st'altro, non so, date na svegliada, bareta squagliada. E ora adesso? Slongo slongo a vista picheno posso, schinso sti vieri contro ste dobae dei oci, e leso pian pianetto, lettera par lettera, paroia par paroia, so che il foglietto un fiade smario un fegà. Che ognunga cusio in tel sopeto, co che a scritturina isiera, isiera, tutta risi, ingatiada, ingolfada de bisi, co che a prima letterona sgionfa bombada, co fa quea de abbi, ste dobae, navaca, ingravidada. E tutti sti santi che i me scanoccia, i rumega, i me varda storto de sbiego, i ciacque a tradeiori e i confabuea co farda dottori, ma varda varda chi che se vede stamattina, chi me ga butta so dal letto, chi la vuo il coraio de spenzerse fin qua, el non sol, sì, fa st'altro, el non solazzo, non magia mai piazzo. Mi? Un non so e asso? E cosa ho mai fatto, mi, pa farme petardoso sta scura fama de non so e asso? Po' mi riva in riccia. Gliel'è venu un colp, poaret. A parte che se son qua qualcosa che mi se venu par forza, non capisco sto poaret? Dipende forse da cosa che te vien, che te ciapa, se te si considera poaret o non so e asso. E via via che scumissio l'eser, so un fiantin pin bas, mi ritrovo vicin zo dell'ultimo scaì, sarà sta distante far la granda qualcosa pide un passo, un certo Piero, proprio cuscita leso, San Piero Cafasso. E cosa vo tu che fassa, San Cafasso? Che dico, se go fato, se no go fato, pazienza. E io, no chi fa, ma chi non il fase in torto, questo non solo vuole dir cafasso. E leso, ma una sciantina pin basso, verso una specie de mari increspà, appena appena mosso, è il nome de San Francesco, scritturina bombada, inchiostro rosso. Ma no, non il solito, il Francesco quel serio d'Assisi che tutti conosciamo, nato sior sfondà e diventà poareto, ma st'altro quel poco mensonà, par niente sentio che nessuno col passava se mai sognà voltarsi in drio, che il de saes, insomma, che il me varda e il me dise. Una statua te fazzo diventare, non solo, come una delle mie, una bianca statua de sales. Che bello, simpaticissimo. Ecco, possiamo procedere ancora e poi continua. Sì. El deve essere una sciantina invidioso de st'altro checo. Ma mi cosa che ne imposso? Mi sononcio, perché voglio farmi diventare de sal? Io, so cuscita de sa io? O vorissio forse dirme santo sales, che in vita non c'apavo opposizione, che non facevo avere me sante ragion, anche quando se trattava di andar contro qualcun, magari de importante, quando se doveva invenarsi un po' col sangue per qualcosa, intendo per una causa davvero, veramente grossa. Dessa io, saria ora dessa io, senza sal, senza nerbo, debo e desuste. O interpreto così, e il me corregga se erro, se capisso par un parpulente san salles, e il me diga, non me lasse frizzar cusita moglio, intelome medesimo olio. Senza sal pole voler dir anca senza ragionamento non solo, pole voler dir homo senza sal, mato, irresponsabile, ma ti de sal in testo senso, te che ne gavei fin massa, benedetto. E ora, come ti stesso te ga dito, se proprio questa è glossa, l'interpretazion corretta, giusta, sal nel senso de sal de atera, che brusa e che fermenta, che se muove e spense in fora, fogo, fogo de vaiori, fede ciusa che punto brusa e tutto il mondo muove. E riva, pian pianeto, san papa sarto da Riese, Trevisan scetto de poche spese, quega e osse e lago in man, che vien vanti cusendo, cusendo col disial. Ai peccai se rimedia, non so si se rimedia, ma guai a ti se te pensi anca sopra un momento, che la sia tutta una commedia. Querzi, querzi tutti i tobusi, attento e ortighe, e cusi ancora, non so, cusi. Bello, simpatico. Molto, molto, molto, molto simpatico. Allora, andiamo con la terza canzone in programma, che è cantata da Bobby Solo, è intitolata Siesta. Al mio paese, quando il sole picchia sulle case, tutta la gente chiude gli occhi, chiude le persiane. Quando è l'ora della siesta, è festa per me. Invece di dormire, io vado a passeggiare da solo col mio amore. Al mio paese, quando il sole picchia sulle case, noi ci baciamo in piazza come fosse mezzanotte. L'aria bianca trema e brucia, ma se mi parla lei, mi sento rinfrescare, mi sembra di volare, di stare in riva al mare. Mi regala ciliegie lilla, rubati ai cancelli, e mi poggia corone di baci intorno ai capelli. Come un re e una regina, noi traversiamo la città, però la gente non lo sa. Al mio paese, quando il sole picchia sulle case, tutta la gente chiude gli occhi e chiude le persiane. Quando è l'ora della siesta, è festa per me. Invece di dormire, io vado a passeggiare da solo col mio amore. Mi regala ciliegie lilla, rubati ai cancelli, e mi poggia corone di baci intorno ai capelli. Come un re e una regina, noi traversiamo la città, però la gente non lo sa. Al mio paese, la gente non lo sa. Eccoci di nuovo in studio e a te la parola, Francesco. Sì, riprendiamo questa sequela dei santi. Allora siamo arrivati a Papa Sarto, no? Ho incontrato Papa Sarto, da Riese, e gli dice con questo tono, no, molto austero, di cucire, eccetera, no? Giocando sul nome, appunto, no? Comunque, se diceva, lui sente in colpa solo a partire dai nomi, e quindi continuiamo adesso questa narrazione, no? in questo incontro coi santi. E sono sul punto de sbassar colpevo e a menoca, che vedo qua qua de locio San Sisto sora un birocio, drio San Lancenigo. Sigo, San Sisto, ma mostrandomi a schiena, sparisse San Sisto e riva Santa Chiacaena. Ma perché Santa Caena te pari vanti appena? Te me mostri stato schiena martoriata da una caena e non te me presenti come tu ti invece il tuo peccà? Ho quasi paura adesso sta magari senza in accorgermene, come se dice, mazzocchista. Adesso sta insomma un che gode farse frustar magari un casuo qua menoca col pensiero, ma te sa che non è vero. Se mai lo pensa, se sta solo pa capir cosa sarà mai che i proverà che a povera gente ha. Te sbagli de grosso Santa Caena, ma il mar intanto se fa pimosso. Forse te che ga confuso con qualcun altro, pensa che ben con qualsiasi altro fracarlo co posso. O con altro non so d'un altro paese foresto, de che non so che coserve e riva de boto, sto qua sì davvero mazzochista che ne so, che magari il se brusava apposta coi candee, mi invece come son brusame, so sempre brusà per sbaglio, te lo sa. Cosa devo mai pensar? Ma vedo il mar ancora pinfia. Caena. Oh, che son, sì che so riva. Caena del Turiboio, sbrissata e manca il cosa come una diesina de anni fa l'ultima notte santa che amarise de Nadal. Certo se vero, mesendà in terra tutto l'armamentario, sol piede poro pare Dario, ma pa sbaglio Santa Caena, non imposso mi a mi, ho colpa adesso di ogni roba, di ogni stramaedetta roba che faso, senza contar tutte stramaedette robe che non faso, come mega pena ricordà Sanca faso. Va ben confesso, gaveo a soca da un'altra parte, noi era del tutto sora al Turiboio. Appunto, te dirà, non solazzo, non eri sior intento, anche se il durave poco tempo, sora de quello che te stavassi facendo. Poi mi come non so più responsabilità d'un altro, de qualsiasi altro, a parte il prete, questo se de giusto, capisso, e ora Caena zozo dai, daghe dentro, fame sbrissare in basso, buttame zo fisso senza remission, zo, in testo nero buron, zo, sì, cara a me Caena, giusta, sacrosanta pena. E cosa fai adesso, Santa Anastasia? Non te par che ne usate, che basta, Santa Anastasia de Rogne? Santa Anastasia, chissà cosa che entra a romì poco sta Santa Anastasia, stavolta che deve essere proprio un error. Un grossiero error de sbaglio. Leso de nuovo per sicurezza. Santa Anastasia. Anzi no, tiro meglio gli occhi. Santa Anastasia. Maedeti orbi. Sì, Santa Anastasia. Nas. Cosa entro mico i nas? Sono mio un osto, un trattore, un albergator mi. L'ho sempre netta ben accesa a me casa. Mi sono sempre fatto ben il bagno, anche due volte a settimana. E mancaria anche qui a poaretto, manetto. Non te vorrà mia dirme, non che credo, questa se granda. Non te vorrà mia dirme davvero che non ho netta ben accesa, vero? No, non è possibile, Santa Anastasia, mi ribeo, vara, mi brucia fin il cervello, perché va ben tutto. Ma questa sì che se n'ha smaccata dopo 30 anni di lavoro onesto, sacco de frumento, senza risparmiarmi, signor Benedetto, diseme cosa che devo fare ora, me pento. Me in caso, me in piso, altro che me pento, come un can rabbioso me incano, ma guarda se te devi sentirte dire a metà, tra l'altro adesso ti siamo qua, da prima santa arrivata, per de pignanca tanto conosua, che non si capisce neanche ben se è una santa Anastasia staccata o santa Anastasia tutta attaccata, che mi nogo ben netà accesa. No, questa no, non la sopporto proprio, non è verso, non a me va so. E non me andrà mai so dal gozo, dal pom d'Adam qua. Te ha gadita grossa, Santa Nas, confesso. Tutti può sbagliare, anche i santi, signor Benedetto. Questa mia niente de male in fondo. Tre volte il gaggiuranca, io San Piero il falso. E adesso già diventa quello che già diventa. Vabbè, non già era proprio santo ancora al tempo del Gaio, ma insomma, e sarà pur sempre diventa il capo di tutta la compagnia, e ora un fia de tua eranza è, riconosci i tuoi errori e confessa Satanas che ho sempre fatto il mio dovere, anche mas. Fin mes. Come sarebbe a dire fin mes? Fin messa. Messa? Cosa che entra adesso a messa? Oh signor, si è vero, una volta ero ciapà in drio e gonetago finio de netar che il prete era già partio. Sì, ero ciapà proprio in drio e gonetà fin messa. Anca massa, conferma sprota santa Nastasia, che agira i tac smuovendo fin l'aria. Bon bon, ho capio l'antifona, mande qua anca santa rua e ora. Da feto, si è così. Diseme già che son danai mai detto e sfogheve, santa pase. Mande fora anche ea, visto che semo, dove sea santa che a pase. Qua l'organizzazione, scuseme, mi so un po' rononso, ma qua l'organizzazione fa acqua. Coraio. Oh, ecco che arriva me santa pase. Ti dico mi vara il me peccà, ti anticipo. Iero massa quieto, massa in pace con tutti e come stesso. Peccanca queo, vabbè. Me piaceva vita tranquilla, confesso che avevo il mito dell'imbottia. Rispetto a quei che i copa, che i roba e i fa de tutto, sarà un peccanca quello, santa che ha pazienza. Ah, ecco te parea, santa pazienza. Chi nega tanta e chi se senza, mica ne ho sempre vuo, fin messa, sempre sopportà, sempre porta tutto su steme do spae, santa che amarise. Ah, va, vien vanti, va. Non vuoi neanche perder tempo con te, chissà che peccà insulso, santa che amarise. Ma sei un vero tormento qua, eh. E chi sei sto qua? Ah, santa Alvise, passo n'ansa. Anche i peccai passo n'ansa adesso. Alvise, viso massa, curalme viso. Giusto, santa Alvise. Quante vardai a specio, quanto sproto ha, te pareva. Ecco, san proto. E me mette fora il naso, visto che semo così, tanto par pura, dico pura curiosità da femmina, perché questa cosa sea, come vogliamo chiamarla, una che te arriva, che non entra niente, a mette fora a napia, perché avete gente. Vien qua, anche a ti, sentate, dai, che sei posto per tutti, santa Prisca, clandestina, brisco e aschei, ma conosco mai zogaschei. Ise sciopai, qua ormai non c'è niente da fare, ise tutti sciopai. E San Macario vario qua, in tei momenti manco indicai, un riva braseto con San Macaco, so meso parente, che come il solito fa altro che ridar per niente. Ma cosa vale mai da ridar se sofferenze de che altri dei squasi danai? Vergogneve invece. Chissà quanto pieni de peccai ieri anche voi altri. Solo perché adesso ormai, azendada se passai, ride d'estaltri. Sarà un fato, santi che ride, chi se fa un bafo, e gira così liberi, va in giro dove che i vola spasso e nessun che dice niente, nessun che li ferme, niente. Ma no che sei un servizio d'ordine qua, de ordine santo, che rassa de posto. E chi seo questo? Santuribio. Cosa fai qua anche San Turibio? Ancora con sto incenso, con sto turibo. Cos'ha risolto tutto con santa che a caena? Basta, passeva l'informazione al manco. E San Piero Chanel, viso beo profumà, issio, senza neanche un pel. Peccai ancora da sproto, insistemo ancora con San Proto, ma scuseme cosa scumissimo adesso? Ripeti i peccai sotto un'altra forma, con altro santo. Va ben che può peccar se pecca in tante forme, ma che adesso, se un se sta castigà panaroma, i deve processarlo ancora con altro santo pa stessa roba. No se mia giustizia, questa se una persecuzione, vuol dir voler veder morto uno, voler coparlo del tutto. Ma naturalmente, battendo sempre so stesso ferro, disemo il vero, del sproto, come se che fosse solo quel peccasto mondo, ecco che arriva Sant'Atanasio, iu, e il suo bel caval Vanesio, e spunta anche San Frumensio. E il me scuse, maniamo a sapan forse San Frumensio? No, che manducato mazzo pane non solo, buttato via piuttosto una volta una bella grande ciopazza di pane senza slongargela neanche il cane. Mamma mia, qua i varda tutto ciò, non che scampa niente, niente. Ecco qua, ultimo di acquada, scarpe coi tacchetti, riva San Siro, San Siro Damian. Fo neanche tempo pensare al peccà che varò senz'altro fato che il metona a sue rece con un megafono. Son San Siro da Milan, non sel, non spassarte la mas com da sgher, sempre con sto baion in man. Che bello, che simpatico. È eccezionale. Insomma, vabbè, allora noi andiamo con un'altra canzone, questa volta Accanto a te l'estate, cantata da Adamo. Accanto a te l'estate scorrerà come un sospiro, come una carezza. Accanto a te l'estate canterà come in un sogno, come un dolce poema. Mi sento un marinaio quando i tuoi capelli ondeggiano sul mare come alghe bionde. E mi sento gran mago quando con un bacio accendo un sole al cielo della tenerezza. Accanto a te l'estate ballerà nel vento con le bianche vele sull'acqua d'argento. Accanto a te l'estate vestirà di festa e ci regalerà i gioielli del sole. Accanto a te l'estate volerà leggera e ci sussurrerà mille parole d'amore. Sarà la nostra estate, per noi due il mondo si dondolerà ad un raggio di luna. Ed ogni notte, amore, io ti cullerò e t'addormenterai in un manto di stelle. Accanto a te l'estate passerà lasciando nell'aria una dolce musica, ma accanto a te l'estate durerà come un incanto per tutta la mia vita. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite per un'altra tranche di questo esilarante cammino di acrobazie verbali, di arcaismi così della civiltà contadina nostrana che sono straordinari. Ecco qua. Allora, abbiamo lasciato il nostro nonso con i suoi santi, no? Ecco, dopo adesso vado un po', magari salto un pezzo per leggervi l'incontro centrale, no, con la figura di Gesù Cristo. Allora qui poi a un certo punto dirà: Zefinia, col nome di Santa Rua, di Santa Ruta, sua sorella, comandoso tutto, Zefinia, eccetera, eccetera, finché dice, insomma, dai, fatemi incontrare con Gesù Cristo, io lo aspetto qua, perché non ho nulla da perdere, insomma, no, questo senso di colpa che lo tortura e che lo porta appunto all'esasperazione. Allora vediamo l'incontro con Gesù Cristo come avviene. E spunta bianco bianco tonega un fiafra poeada, forse anca infeltria, chieto chieto un fia in surio, Gesù Cristo benedetto russandose un ocio, esecuscita straco, che come che il sevisina il se posa su un sasso. Ciao non so io, e il medise ridendo e ciapando un fia al fia, scusa se te l'ho fatto spettar, ma iero e api in basso, drio far do parole copiero, come fai o dei cognome, aiutami. Cafasso? Sì, sì, cafasso, proprio cafasso, bravo il menonso, ah, il fa, pa fare il fa, Piero, fin massa, rossa voto che piace far, come che piace a far so in basso, così il fa anche qua de sora, più che altro però te confesso, e me fa diventare matto. Ma parliamo di te. Cosa me conti tu, non so? Vuoi tu che andiamo a bever qualcosa? Che me sgranchisso anche a miste quattro ossa? E chissà che non me stravi anche un fiatin, che govù una giornadea un cuo che non che auguro nessun. Me piace sto Cristo che ride, che squagi se confida. E ora? Dove andiamo, non so? Dove porti tu sto poro Cristo? Fa strada ti, dai, fa come te fussi casa. So come in succa, a succa, non so cosa far, dove ho porto. Non se poco non sa chissà quanti posti in giro per il mondo. Ai, non so, non sta a fassarti a testa per niente, un posto val che altro. Va bene, ora Cristo, se è così, vien con me, me fa coraio. Ciappo una bea rincorsa e svolassando porto via de prepo in direzione de San Gisdepo il me colmel. Anche se fa ancora ciaro, stento vederlo da qua sola, costei stasso fegose che vien via, sta capa che ti assassina e querse tutto fin dai siede a mattina. Case, vide, siese, moreri, tutto un gran fumeron, che se non fosse pasto toco de campanil che spunta coa croce, e San Gisdepo, che ha un fiatin pin basso da sora accesa, slonga fora sto toco de braso, mena corsaria neanche ad essa arrivà. Ciapo distinto un troso, po' salto un fosso che conosco, e neanche a farlo apposta, vo' sbatardosso all'ostaria, de Beppi Oco. In ostaria te porti, non so, Cristo? Scherzi, tu fa tu posta. Guarda che te pianto qua, giro i sandai e torno in rio. No, no, non sta a preoccuparte, Cristo, se che non savea dove andar sbata a testa. Se lo sapevo prima, vuoi pensarmi che lo vuoi andare a bevere? Dimmi prima, no, che fissavo in qualche canton. Cosa ga tu non so che te pronto, e vara che va bene anche all'osteria, se tanto paveva un giosso così in compagnia. No, Cristo, non sei che vorria portarte dentro in osteria, scarsi tu che mancaria. Fora, fora, sotto a pergo e a te metto. Scusa che netto un fiacqua chi assaso de tutto. Non state a disturbar, non so, va bene lo stesso. Cosa metto tu, Cristo, una rutta, una prugna, una china? Tu aria calcosetta de leggero, magari una spuma, cosa dici tu? Me par che se così che se chiama. Vabbè, una spuma come che te vuoi, Cristo? Forte sto Cristo, ma me piace proprio sto Gesù. Non se fa riguardo per niente, ciò sente o non sente, varia mai creduo? Uno se tolle un appuntamento con Gesù in persona, immagina che in fin dei conti, buon o tristo, un Cristo sarà sempre un Cristo. Non dico se metterà a fare sparonzon adesso, ma un fiatin su e su e starà pur, no? E invece varà qua, parla di Aeto. E il se degna andare anche in osteria, no come il nostro Piovan e Ade San Gisdepo, e gne gne gne che anima isiera. Te puoi star più che sicuro non ha d'aver mai ordinato in vita sua una bea sgnapa. O come Cristo qua un bel goto de ruta. Una spuma non so, no una ruta gordina. Ma Cristo, me l'esito in tel pensiero? No, non so, cosa vuoi tu che te l'esa, sono mio un mago. Poi non me permetteria mai, vuoi tu vedere che adesso non ti sei neanche più libero di pensare quel che te vuoi? Benedetto che arrivo mio e te l'eso dentro. No, no, usatemi si condiziona che basta da tutto quel che altri pensa. Disemo la verità. Che mancaria solo che mi mettesse anche a me. No, no, sono venuto qua, non sono venuto qua per complicarti l'esistenza, non so. Solo che ho vantato sta parola, sta unica parola sbagliata del tuo libero pensare, ruta, e mi sono permesso di farti notare. Sennò mi arriva qua un goto de ruta che non finisse altro. Perché ve conosco mi andè a bicerini voi altri qua, goti strapieni che uno non sa neanche che santi chiamare. E a ruta a me non mi piace, se amara, ciusa, e a me brusa, a me fa male, ma mi so come sono fatto. Magari per farti un piacere, mi ascuoio tutta, butto su diretta, per non sentirla mare in bocca. Per non avere il coraggio, con un bon o confesso di buttarla senza darte soloccio, magari quasi pal fosso. Beh, te me stupissi, Cristo. Scusa, ma te me stupissi proprio. Se non te ga ordina una ruta, o mica capio mal, o non so mi cosa, te volanga dirlo, che te ha fatto cambiare, che se mi ha niente de mal. Sì, è vero, non che saria niente de mal, non so. No che seria, però mi dispiace, cosa devo dirti, sei più forte di me. Mi dispiace perché magari te si ti che restarissi mal, mi capisci tu? Magari te farissi convinto di aver sbagliato, di aver capito mal. Permettami una parola, Cristo, su una parola, se non te acciapi però. Dimmi pur non so, parla senza sudicion, liberamente. Secondo me, me parmisa, ma te si massa sensibile, Cristo. Che se poco io chi mi ha sempre detto anche a me fin da ceo. Guarda che se te continui così, secondo me, a ciaparti a partuto e partuti a te vien su un mal de stomaco, Cristo, che non te salvi pi. Vengo una serie di brusori, infatti, te sapessi, specie in primavera, che cambia stagione. Comunque non te lesi nel pensiero. Posso star tranquillo e ora te me sicuri che posso pensar quel che vuoi. Sta quieto, non so, sentete libero di pensar quel che te vuol, benedetto. Se sono una piccola licenza quella che mi sono tolto prima. Se che non sopporto che mi si daga roba che non voglio. E Cristo bevi qua una chinetta, una graspetta coi mirtii, coa gensianea, coi ortighe, che mi ha procurata giusto ieri una mea mia suora. Qua non so, i gatuti corrivo pa ste case, il manco una gnagna suora, che viene da Fonzaso, Croce d'Aune o dall'Alpago, ma che se conventi da che parti che ti te sappia, non so. E a tutti i parenti da chi posti che fa altro che mandare che so bosse. È tutto un bevar che uno corriva sera non trova pignanca a porta di casa, tutto un giramento di testa, un smissiamento di stomaco, a sommi abituami, non so mia da qua, boh, te lo sa bene anche a te. A verità sei che in giro pastito col mei, non so, scusa se te lo dico, non sta a parte a te adesso, fe altro che bevar, e non de mia acqua, Non se può dirte che capi tutti i torti, Cristo, ma ora scusa, fammi capire, anche a partì, per quel che se dice un Cristo, insomma, coi te invita de qua, de a, non sei che te fa lo stesso, non sei che te che vuol ben a tutti in te stessa maniera, insomma, no, qua par dir, magari a causa de sto bevar, non te vegnarissi proprio vintiera. Cosa volessi tu dir, non so, che tendaria a far qualche, come dir, differenzetta? Ma un peo forse, ogni tanto, senza inaccorgerti, ma differenze adesso, differenze, una parola grossa, differenze, non so. Se sta poco a passare dai differenze e preferenze, te sa, dicevo piuttosto che mi piaceria, ecco, mi piaceria, se potesse scegliere, se fosse per me, insomma, dar su e so pasti postesini quieti, dove se beve solo quel giosseto, dove soprattutto non si insiste massa, dove che uno se... Una volta se no, una volta se no. Ah, ho capito. È perché qua me figurami. I te tontona, massa. Cos'è massa, se massa. E Cristo il beva sta ombretta, e sta chinetta. Non si è mai finito, capisco. Sta gente te sa, non sa cosa farte coi te vede. No, adesso no. Non sta a farmi sentire in colpa, non so. So che non sa cosa farmi coi me vede. Chi lo fa col cuore, e questo e quello, ma pensa anche a me. Devo pure arrivare a sera. Sì, non dico mia, ciò. Come che sei giusto? Anche a te te può avere i tuoi problemi. Non so come dire. Una sciantina di fisime, che manca... Fisime? Parfim fisime? Di fetini, non so neanche a me, Cristo, come chiamarli. Anche di feti adesso. Scusa, Cristo, forse che ho sbagliato a parlare. O so, te capisco. Anche a me, le volte sarei un fiantin sul permaioseto. Permaioso, mi? Scusa, non so. No, perché adesso, finché se scherza, ma te me chiami di feti. Unche come mica, mal de stomaco, ma è ora fisiche, altro che di feti. Scusa, Cristo, non sta a arrabbiarte. Te prego, non volevo offenderti. Ah, così ora, caro il menonzo da San Gisdeppo, sarei anche un fiantin sul permaioseto. No, perché me ne dite tante in vita, ma questa mi risulta nuova, Cristo permaioso. Beh, se guardiamo ben, Cristo, non per dir, ma anche che a volta il tempio è... Come che a volta? Tutte che bancarego, che quattro tatare, de sora, che stroz, che non te vedevi ora, che te ha fatto un degheio, dice la verità. Forte cosa che mi va a tirar fuori sto nonso, con tutto il tempo che si è passato, non mi ricordavo neanche più. Ciameo per maioso, e che aveva ciappato il tempio per un marcà, non so miami. Sì, sì, scusa, in effetti, forse ho fatto un gran esempio. Una spumetta, e ora Cristo, sì, sì, una spumetta, te si tu rabbia adesso. No, scherzi tu, cos'è che mi vuole un peo, perché a me passa che sa, va a venire in qua. Se brutto è se per maiosi. Tacchi tu da nuovo adesso. No, no, scusa, dicevo così, è ora una prugna per me. Ti tocco io che te vuol, benedetto, mi metto una bella spuma, zaia. To è il color che te vuol, che mancaria, e ora deciso, una spuma, zaia. Zaia, zaia, sì. Ecco la tua spumetta. Grazie, mi ammetto qua e mi augusto pian pianetto. Oh, te ga poco da farte meraviglia, non so. Mi piace a spuma zaia, mi piace. Devo sentirmi in colpa? No, no, se ti piace a spuma zaia, bevete. Se che non vorrei mai te vedesse dentro e a te sa. O dico partisa, se te vuole un domani venire qua a predicare, non so mi cosa. Non è una gran presentazione. Vanti sera, vardei che vien qua a predicare, qui che ieri che ordinà una spuma zaia. Mi parsa di sentirli, oi capio ben? Una spuma, zaia! Se caldo un qua, non so. Mi cambi tu discorso, Cristo, adesso? Ma forse cambio discorso, non so, sarà un fatto, eh? Potrò bevere quel che vuoi, senza dover render conto a nessun. Asse che beva in pace, eh? Sì, sì, scusa, che c'è un peo de afa un qua. C'ha me un peo, se soffega da ste parti, altro che. Perché dite si abituaso, ai mesi marocchini, a un caldo sutto. Guarda, non so che i marocchini non c'entra niente con dove stavo mi de casa, con dove sono nato. Semmai adesso che sei i palestinesi gli ebrei, so, da me. Ma di andare a fare anche un salto un desti giorni da che parte, mi viene già mal. Beh, capisco, non c'è niente di peso che dover mettere d'accordo gente che parla più non vuol savergene. Però scusa se insisto, Cristo, sei un po' vero però che te, de tuo te sarisi un fia per maiosetto anche adesso. Su starte così perché metto insieme marocchini con palestinesi, dove sarà mai tutta questa differenza? Noi c'è tutta gente che viene da tuo parti, po', da tutti i posti caldi. Qua non si tratta di essere per maiosi, non so, te me confondi l'Africa col Medio Oriente, sarà anche per maioso, me lo dico, ma tia geografia, benedetto, non te sa mia dove che state a casa. va ben, dai, precisincio, pignolo, meticoloso, semmo star che fosse abbastanza caldo, un quasi da avere un caldo mai detto. Soffegoso, più che altro. Caro. Bello. E niente, siamo proprio arrivati alla fine, abbiamo solo un paio di minuti così per... Per commentare un, per commentare un attimo per la, così, la poetica, così, questo tra, mamma mia, ma... tra serio e faceto, tra sacro e profano. Ma una cosa stupenda, però, veramente. Decisamente. Grazie, complimenti, sì. Complimenti. Sarebbe bello poterlo fare in tre volte, farlo ascoltare tutto, sì, ai nostri ascoltatori. Tutto in due, in tre volte, sì, appunto. Esatto. Da dieci. Perché dieci io ricordavo, diciamo, una precedente così, un frammento, ma ogni volta c'è un apporto di questi arcaismi proprio contadini, sono una cosa eccezionale. Sì, perché c'è sia il discorso della lingua, no? Questa ricerca della lingua anche arcaica, e sto giocare con la lingua, quello è un piano, sì, che appunto è stato anche registrato, sto studio, diciamo, sulla lingua. Certo. Poi c'è l'altro aspetto che secondo me non è stato rilevato bene, che è l'aspetto psicologico, no? Sì. Cioè l'aspetto più profondo, insomma, no? Cioè questo senso di colpa che pervade, e poi questo Gesù che si mette nei panni del sacrestano per fargli superare i suoi problemi, e quindi per farlo rilassare, questi medesimarsi, no? Difatti c'è proprio un rapporto proprio una cosa veramente bellissimo. Niente, qui adesso è così, ci tocca naturalmente, anche se purtroppo, non vorremmo purtroppo, sì. Così fare questo, allora questo Francesco, ci sentiremo in partita, settembre, diciamo, sì, ecco. contiamo di trovarci alla prossima. D'accordo. Comunque ti ringraziamo tantissimo. Sì. Addio, piacendo. Sì. Niente, questa è stata una stagione molto gratificante, sì, almeno per quanto mi concerne. Sì, anche per me. E spero che non sia stato, sì, appunto, diciamo, dall'altra parte della barricata. Diciamo, e tu, Francesco, vogliamo, hai veramente finito in bellezza, in gloria. Ecco, questa, diciamo, storia de Noaltri, ecco, de questa qui è una vera storia de Noaltri. Quindi, le nostre radici, sì. Esattamente. Ti aspettiamo. Alla prossima volta. Va bene, saluto tutti gli ascoltatori. E noi ti ringraziamo tanto. Grazie. Allora, Antonio, alla prossima. Buone vacanze, Antonio. Anche a voi. Ecco. Anche a voi. E a tutti, come sempre, dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.